abituato a vestire di scuro corpo e anima, a fare paura, a coltivare odio, credendo fosse naturale difesa. Morale passa e brucia dall'ingiustizia.